Mattina grigia in questa casa che ora è veramente solo mia. Riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene. Tu che pensi solamente, spinta dall'affetto e non ne vuoi sapere, di battaglie d'odio, di ripicche e di rancore, e ti intenerisci ad ogni mio difetto. Tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. E trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo chiamiamo amore. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti. Per tutti. Ciò che noi sappiamo ha da tempo superato ogni scienza logica, concetto o commento di filosofia eremita. Ciò che non sei tu e che voglio tu capisca quanto unico, prezioso, insostituibile è solo tuo. Sia il dono della vita. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego il negabile, rido il possibile, curo il ricordo e mi scordo di me. E perdo il momento sperando che solo, perdendo quel tanto, tu resti con me. Ti fermo alle luci al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me. Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri. Vorrei ricordassi tra i drammi più brutti che il sole esiste per tutti, esiste per tutti. Per tutti.